Lo sfondo della mia ricerca è l'impatto del turismo di massa a Napoli negli ultimi 10 anni. Credo che sia importante, insomma, collocare lo sviluppo del terzo settore e in particolare dei grandi enti del terzo settore dentro questo sfondo qui. Io analizzo 3 casi studio, tutti e 3 nel centro storico della città. Non a caso il centro storico è quello che, diciamo, l'area della città che è stata investita dal turismo di massa e ne ha cambiato proprio i connotati, ne sta cambiando i connotati non solo economici, sociali, ma anche fisici, proprio la forma della città. Diciamo il ruolo che hanno avuto questi grandi enti è che è un po' una mutazione che è in corso e che probabilmente porterà anche a nuovi scenari nel giro di poco. Questi grandi enti hanno tutti cominciato come enti che si occupano di assistenza, di educazione, di attività sociali, ma rapidamente hanno incominciato a differenziare le loro attività, quindi dalle attività educative hanno incominciato a occuparsi anche di accoglienza, di ristorazione, di gestione dei beni monumentali, di gestione degli eventi culturali, eccetera. Quindi lo spettro si è allargato sempre di più, lo spettro delle attività. Non è più soltanto quel ruolo sussidiario rispetto al welfare, sono proprio attività di imprese che, proprio come tutte le grandi imprese, tendono sempre di più ad allargarsi, a differenziarsi, quindi in qualche modo a cercare di in qualche modo influenzare proprio il governo della città. Non è solo sostituirsi alla gestione delle questioni sociali, ma in qualche modo proporre e avanzare un modello di città che, va detto, insomma, gli amministratori in qualche modo accolgono di buon grado e acriticamente. Le caratteristiche di questi grandi enti sono sostanzialmente 3: quella di avere una quantità di risorse fuori scala enorme rispetto agli enti piccoli e medi del terzo settore, di avere una serie di relazioni sia istituzionali che, diciamo, con gli enti commerciali, che gli permette di influire sulle scelte anche di chi prende le decisioni politiche e gli investimenti, e poi una grande esposizione sulla mediatica, quindi, diciamo, ogni loro iniziativa viene rilanciata in maniera acritica dalla stampa. A partire da queste caratteristiche, la mia ricerca vuole mettere in luce una mutazione, insomma, che le politiche della città sono sempre meno nelle mani di chi è stato eletto, ma sempre di più nelle mani di chi dispone dei capitali, delle relazioni, insomma, e del favore dei media. Un ruolo centrale in questo scenario ce l'hanno le fondazioni, e uno dei problemi è proprio quello che non rispondono al controllo democratico, come ad esempio invece un'amministrazione comunale. Sì, io parlo della Fondazione Focus, che è a Napoli, ma insomma, che in questo fine settimana ha organizzato a Palermo un convegno che si chiama Cambiare la scuola, cambiare la città, che, insomma, è emblematico un po' della linea che portano avanti queste fondazioni. La Fondazione Focus nasce come un circuito di scuole private, e poi a Napoli 10 anni fa prende in gestione uno spazio enorme, un ex convento del Cinquecento, e accanto alla scuola, appunto, incomincia a gestire una serie di spazi, di attività, e si propone di fare, diciamo, come un governo ombra, diciamo, a partire da quel quartiere, dai quartieri spagnoli, incomincia a proporre una serie di misure, di politiche, proprio perché possono essere generalizzate, insomma. Ma si tratta di linee politiche che sono quelle dettate dal mercato, dalle grandi imprese, e che sono, appunto, sempre di più privatizzazioni degli spazi pubblici, gestione commerciale di ogni aspetto della vita, insomma, dal tempo libero alla ristorazione, all'accoglienza turistica. E quindi questo è un po' quello che accade a Napoli, ma accade, insomma, un po' in tutte le grandi città italiane. Ogni città naturalmente ha le sue specificità. Napoli ha un tessuto sociale nel centro storico molto, in qualche modo, anche resistente, che è sempre stato resistente ai cambiamenti, ma, insomma, negli ultimi anni l'impatto del turismo ha portato soprattutto conseguenze sull'abitare, con il rialzo degli affitti, con la scomparsa proprio delle case, perché sono, insomma, ormai in gran parte dedicate agli affitti brevi, quindi la difficoltà importanti a trovare sistemazioni e allo stesso tempo una produzione di una grande mole di lavoro povero, al nero, in grigio, sottopagato, che è sempre stata una caratteristica del nostro territorio, ma che diciamo con il turismo si è allargata a dismisura, per cui gli effetti benefici che poi vengono sempre ascritti al turismo ovviamente vanno a beneficio di soltanto di pochi, diciamo le diseguaglianze insomma aumentano e questo è sempre più evidente, insomma anche diciamo finalmente in qualche modo anche la stampa, i media incominciano ad accorgersene, l'invasione turistica sta raggiungendo proporzioni che insomma saltano agli occhi ormai anche di chi non voleva vedere prima, e la capacità di governare questi fenomeni da parte del personale politico, amministrativo è insomma ridotta al minimo. Vorrei parlare di un concetto che qua in Emilia Romagna è stato utilizzato soprattutto per la sanità e per la scuola, ma insomma viene applicato anche un po' ad altri ambiti, e per giustificare la presenza dei privati qui si è parlato spesso di sussidiarietà, cioè il privato può aiutare il pubblico quando non riesce a coprire tutto il servizio che dovrebbe erogare. In realtà siamo arrivati in una situazione di ribaltamento in cui appunto, come dicevi prima, si arriva a una sorta di privatizzazione e in cui a dettare la linea è il mercato. Sì, naturalmente il welfare è in ritirata un po' dappertutto, insomma nelle regioni meridionali questa crisi si innesta comunque su un tessuto già molto fragile di servizi, dei servizi sociali a Napoli, nella città di Napoli, ma insomma un po' dappertutto al sud, e appunto stanno nascendo nuove forme sempre più diciamo egemoni, non solo dal punto di vista economico ma anche delle narrazioni, insomma di questi casi di cui mi occupo, insomma i dirigenti di queste fondazioni di comunità, io mi occupo della fondazione di comunità San Gennaro nel Rione Sanità, della fondazione Focus nei quartieri spagnoli, della Onlus l'altra Napoli a Forcella, analizzo un po' l'ideologia delle dirigenze di questi enti, che appunto sono ideologie assolutamente contrarie al pubblico, che è visto sempre come un inefficace, inefficiente, lento, burocratico, mentre il privato viene visto come invece decisionista, interventista, efficace. Quindi a partire da questa narrazione, sempre più diciamo questa narrazione è accettata anche da chi amministra la città, la delega è sempre più ampia, un po' qualsiasi cosa. Ultimamente anche si sta approvando un regolamento dei parchi pubblici della città che prevede appunto la gestione non solo degli spazi ma anche poi degli spazi commerciali e così via. Questa è un po' la linea comune, insomma quello che io cerco di far notare è che non si tratta di pubblico o privato, diciamo attori pubblici o privati, in realtà non c'è una gran differenza, insomma si tratta sostanzialmente della classe dirigente delle città, che sia che occupi posti di amministratori o di dirigenti d'azienda, spinge in questa direzione qui. Quindi la questione è un po' cercare di vedere diciamo le strutture che governano i cambiamenti della città e cercare di vedere un po' a fondo chi abbiamo davanti e in che modo anche proporre delle alternative, perché altrimenti i discorsi, insomma le narrazioni che vengono da questo tipo di attori sono anche molto pervasive, anche difficili da decifrare, insomma c'è una grande confusione tra, appunto il mio libro si chiama L'impresa del bene, perché insomma c'è una grande confusione su chi fa del bene, a chi lo fa e perché lo fa, diciamo.